Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non che io l'avessi mai presa in considerazione durante l'anno scolastico, ora però, a vederla lì in spiaggia e percependo le attenzioni dell'amico per lei, mi ero completamente perso. Stavo lì con l'oppressione al petto, quasi facendo fatica a respirare. Sono Gregorio, ho 41 anni, abito a Genova e faccio l'informatico. Come diceva il signore con la mia stessa voce poco prima di incominciare il programma, lunedì siamo in diretta dal Flagship Store, o semplicemente dallo store Pirelli di Corso Venezia numero 1 a Milano. Siamo in diretta, siamo dal vivo e siamo gratuiti, lo dico perché magari uno se lo chiede. Potete venire semplicemente a seguirvi la diretta e per farlo andate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, voi siete qui, c'è un banner, come si chiama, una finestra a sinistra, così Pirelli molto grosso, voi siete qui live, compilate il form, lo spedite e ci vediamo là. Questo se avete voglia di seguire una puntata in diretta, se volete guardarla come avviene di solito con Tiziano, Margherita non lo so, Margherita forse no, vabbè, con tutti quanti fanno il programma, o quelli che ci saranno. Se invece volete partecipare e volete inviare una storia che sia legata al calcio, inviatela a voi siete qui @radio24.it. Una storia, guardate, di solito cerchiamo storie vissute in prima persona, quindi come dire di partite giocate. Se però ci sono anche partite che magari avete visto, che avete seguito, che sono partite di calcio ovviamente, e avete voglia di inviarci quell'episodio, voi siete qui @radio24.it, uguale l'indirizzo è sempre quello lì. Vi ricordo, lunedì prossimo sarà una splendida giornata, ci sarà un grande sole, sarà bello camminare per le strade del centro di Milano e venire alle 4 al Pirelli Flagship Store. Me l'ho ripromesso di non dirlo perché avevo paura di non essere capace, invece figurati, Flagship Store. Alle 16 in diretta, ma veniamo a noi, veniamo alle 16:10 minuti di questo bel martedì 6 di maggio. Oggi raccontiamo una storia di Gregorio che è una storia particolare. Prima di cominciare la devo introdurre. Non è particolare, è una storia normalissima di un innamoramento giovane, di ragazzi. È particolare il modo in cui la racconta. E visto che noi chiediamo sempre storie, come dicevo un attimo fa, riguardo alle storie di calcio, storie vissute in prima persona, abbiamo fatto un po' uno strappo per questa, perché in realtà quello che succede nella sua testa è abbastanza comune. E cioè, ti succede una cosa, soprattutto se sei un ragazzo o un uomo, con una ragazza o con una donna, e racconti quella. E poi passi i giorni a pensare cosa avrà pensato lei, come l'avrà vissuta lei. Ecco, la storia di Gregorio racconta questo, racconta come la vive lui e poi come la immagina lei. 349-238-6666 invece è il numero per mandare gli sms se avete voglia di partecipare con una storia che abbia a che fare con la vostra fidanzata giovane. Solo se siete sposati, fidanzati o compagni con la stessa fidanzatina di quando eravate ragazzi, raccontateci chi siete, da quanto state insieme. 349-238-6666, voi siete qui Radio 24 sul profilo Facebook. Questa qui è la storia di Gregorio. Non era bella, ma in costume da bagno, la pelle scura, i riccioli nerissimi, stesa sull'asciugamano immacolato e perfettamente stirato, per me era come se non ci fosse stato null'altro al mondo. Purtroppo invece qualcosa c'era, anzi, qualcuno. Il mio amico Davide. Era stato lui ad invitarle, lei e la sua amica, ed erano venute a passare un giorno al mare con noi. L'idea di invitarle tutte e due era scaltra, io non ci sarei mai arrivato. Chiaramente lui aveva delle mire sulla mora, mentre la bionda, nonostante i 17 anni, riusciva a passare abbastanza inosservata. Non che io l'avessi mai presa in considerazione durante l'anno scolastico, ma ora, vederla lì, sulla spiaggia, percependo le attenzioni dell'amico per lei, mi ero completamente perso. E me ne stavo lì, con l'oppressione al petto, quasi facendo fatica a respirare. Le cose che ti lasciano così stupito, no? Sono preso al mare, io quando stendo l'asciugamano c'è sempre la sabbia, c'è sempre qualcosa sull'asciugamano, invece le ragazze quando stendono l'asciugamano hanno questo asciugamano che è perfetto, senza, no? Non so, sono quelle immagini di quell'impressione di grande nettezza, di perfezione, ma non di perfezione della persona, no? Ma di perfezione del quadro. Il fatto che le ragazze tra loro due parlassero di uomini e che lei lodasse il formaggiaio del quartiere, un ragazzo alto, per me sarebbe stato sufficiente a lasciar perdere, poco avvezzo alle schermaglie d'amore. Davide invece si era impegnato in un corteggiamento basato su scherzi e rincorse, mentre io guardavo con un misto di invidia, di ammirazione e di sconcerto per qualcosa che non sarei mai stato in grado di fare. La giornata era passata ed era ora per loro di tornare. Noi eravamo in villeggiatura e ci saremmo fermati. Avremmo però riaccompagnato le ragazze al treno. Sulla strada per la stazione io cercavo di rimuginare delle parole da dirle, ben sapendo che l'amico si sarebbe dichiarato. Camminavamo in fila indiana sul marciapiede troppo stretto e la mia mente si distraeva notando ora un albero di banano, ora una macchina di passaggio o il cornicione di una casa. Aspettammo il treno per un tempo infinito, o almeno così mi sembrò. La stazione era ancora assolata e ci riparavamo sotto la pensilina. Lei era abituata a non essere al centro dell'attenzione. Aveva accettato volentieri quando l'amica l'aveva chiamata dicendo «Dai, andiamo al mare, ci ha invitato Davide». Lei sapeva che c'era qualche cosa nell'aria. Queste cose le capiva non dalle parole dette, ma dai toni di voce, da quelle note stridule o stonate in una frase. Sapeva di non essere come le altre compagne, sbocciate in tutte le loro forme, desiderate, corteggiate. Alcune anche con mezze storie con uomini adulti, addirittura quarantenni. L'invito le faceva molto piacere, in realtà coltivava un sogno terribile e segreto. Davide, ambito e brillante. Certo, la prospettiva di sorbirsi le schermaglie dei due non la solleticava, ma il suo desiderio era più forte e la sua vista più lunga, nonostante portasse gli occhiali. Comunque, anche se lui era il suo compagno di banco, voleva vederlo, stargli vicino, anche se le sue attenzioni non erano per lei. Io ero un po', come dire, sfortunato, ero proprio di quelli decisi, di quelli disinvolti, piuttosto introverso e impacciato, ecco, quindi a me sembravano cose inarrivabili. I ragazzi erano stati così carini ad andarle a prendere in stazione e le avevano scortate in spiaggia, ma lei aveva percepito subito l'elettricità che c'era nell'aria mentre stendevano gli asciugamani e si erano spalmate religiosamente di creme. Certo, il corteggiamento un po' la imbarazzava e un po' di invidia la provava. Sarebbe mai toccato anche a lei, anche da un altro ragazzo? A volte disperava. Era comunque stata una bella giornata e la compagnia molto gradevole. Certamente meglio che starsene a casa da sola con quel sole. Ma il momento più imbarazzante era stato mentre aspettavano il treno del ritorno in stazione. Aveva già percepito sulla strada che la tensione era salita di tono, ma non avrebbe mai immaginato che tra la campanella che annuncia il treno e il suo arrivo, l'amica ricevesse ben due dichiarazioni. Il viaggio era stato silenzioso, l'amica invece ciarlava felice, si era anche presa al lusso di rifiutarli entrambi. Non sapeva ancora che l'anno dopo il suo sogno si sarebbe avverato. C'è un'età della nostra vita in cui l'amore ha una leggerezza che altre età non hanno. Non so perché. Forse è il ricordo a renderlo così. O forse sono gli amori che abbiamo solo immaginato o sognato a sembrare evanescenti e leggeri. Il racconto di Gregorio è sorprendente per la dolcezza fatta di niente che hanno gli amori dei ragazzi. Quelli che, se ci si prende per mano, ci si sente insieme per la vita. Senza domande, senza dubbi o recriminazioni. Una mano nell'altra indica che ci amiamo, anche se abbiamo 5 anni e si dura un pomeriggio. Sì, deve essere questo il motivo per cui, solo a quell'età, l'amore è il sentimento più giusto che si possa provare. Giusto perché rende felici di una felicità che non risolve nessun problema, semplicemente li elimina, i problemi. Io all'asilo mi baciavo con la Sandra dietro l'albero. Questo è il ricordo nudo e crudo che ho della mia esperienza amorosa all'asilo. Non ricordo come si chiamasse la Sandra di cognome, non ricordo se ci baciavamo davvero oppure no, e nemmeno l'albero. Ma questa immagine è l'immagine che la mia mente ha conservato e che tira fuori quando serve pensare all'amore in embrione, quello che un po' si provava e un po' si imitava, visto fare dagli adulti. Poi dopo l'asilo sono cresciuto e già alle elementari le esperienze sentimentali erano più complicate, per non parlare di quelle delle medie, che tra l'altro ho trascorso in una classe di soli maschi, in un seminario nella periferia di Novara, quindi potete immaginare che tipo di rapporto devastante abbia avuto con quel sentimento. Poi è arrivato il liceo, le ragazze sono tornate a danzare davanti ai miei occhi e nei miei desideri, ma i travagli sono sempre stati più forti di qualsiasi approccio verso quegli esseri strani e meravigliosi che profumavano di fresco e mi sedevano accanto in classe. Poi ho incontrato Miriam. Miriam l'ho incontrata l'anno della terza liceo, quando la nostra classe venne trasferita da un distaccamento alla sede centrale dell'istituto. Di lei ricordo che assomigliava terribilmente a Mirjana Trevisan. Ve la ricordate? Una di quelle giovani e inconsapevoli donne che animavano il pomeriggio di Non è la Rai e i sogni di molti adolescenti dell'epoca. Al contrario di Mirjana, però, Miriam non ballava, non cantava e non rideva, quasi mai. La vedevo tornare a casa a piedi mentre aspettavo l'autobus per Romentino. Davanti a lei tutta la dialettica elementare che avevo elaborato a quell'epoca per avvicinare una ragazza perdeva qualsiasi dignità. Non le parlai mai. Ma visto che pensavo di essere uno sveglio e anche un po' romantico, dopo aver scoperto il suo indirizzo, sì, un giorno la pedinai, iniziai a scriverle delle lettere. Non lettere d'amore qualunque, ovviamente, perché mi sembravano troppo banali. Lettere in cui scrivevo dei brevi poemi in terzine dantesche. Credo che fossero endecasillabi sciolti. Sì, ero talmente imbecille da pensare che questo avrebbe in qualche modo smosso la sua sensibilità artistica e l'avrebbe resa vulnerabile alla mia avance. Avance che in fondo io nemmeno facevo, primo perché non le chiedevo nulla, secondo perché non mi firmavo, se non con uno pseudonimo di cui mi vergogno troppo per poterlo svelare. E quindi, per suggellare questo amore epistolare e leggerissimo, il giorno del suo compleanno le mandai a casa una torta di meringa, perché non conoscendo i suoi gusti pensai che fosse giusto mandare la torta che piaceva a me. Ecco, quello fu l'ultimo atto della mia relazione letteraria con Miriam. L'ho incontrata un paio di altre volte in età adulta, ma non le ho mai confessato nulla. Ecco, lo faccio ora. Ma sinceramente, in nome della leggerezza di quell'amore liceale, spero proprio che lei non ascolti il programma. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone. Perché poi le dichiarazioni d'amore con la donna con cui si sta da una vita spesso sono molto più sentimentali di quelli che si fanno con una donna conosciuta di recente. Visto che oggi, grazie alla storia di Gregorio, abbiamo chiesto dei messaggi che ci raccontino di storie d'amore nate allora, quando si era ragazzini e che continuano ancora oggi, arrivano frotte di messaggi. Sono sposato, conosciuto a 15 anni nel 76 durante una vacanza a Lipari con i ragazzi dell'oratorio, e poi seguito da lontano nel 77 decido di passare dallo scientifico al classico per potergli stare vicino e avere occasioni per frequentarlo. Mi faccio mettere nella sua classe. Siamo insieme dal 78, sposati dal 90, tre figli, eccetera, eccetera, eccetera. C'è però un messaggio di Silvia che dice: io non ci ho capito niente. Chi era innamorato di chi? Lo chiedo direttamente a Gregorio. Pronto, Gregorio? Ciao. Ciao, io. Come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi, Gregorio? In questo momento a Bergamo. Stai bene? Perché mi sembri un po' giù. No, tutto bene. Ok, sei solo un po' timido. Benissimo, dal racconto un pochettino si capiva. Allora, facciamo un passo indietro e capiamo tutto. Tu sei col tuo amico Davide, ok? Sì. E lui è quello un po', diciamo, più sciolto dei due. Sì, parecchio. Parecchio. E poi ci sono le due ragazze, sì, che chiameremo, non diamogli un nome, non diamogli il loro nome, le chiameremo Sandra, quella che è un pochettino più appariscente, e Claudia, l'altra, ok? Sì. Dunque, me la spieghi tu perché mi sono perso anch'io. Sostanzialmente Davide ci prova con tutte e due. No, scusami, voi due ci provate con Sandra. Esatto. Esatto. Però, e lei dà un 2 di picche a tutte e due. Esatto. Però poi l'anno dopo? L'anno dopo Davide si mette con l'altra. Ah, Davide si mette con... Esatto. Ah, ok. E come finisce? Finisce, vabbè, finisce in poco. No, no, no, la storia di liceo, poi dopo il liceo poi finisce, verso la fine del liceo poi finisce. E scusami, Gregorio, e tu in tutto questo? Niente. però da allora ad oggi tu ovviamente hai una fidanzata, una compagna... No, certamente. No, perdonami, quando faccio queste domande ho sempre una sorta di spada di Damocle qua, vedo Margherita Ina che mi guarda, no, come dire, non dire cazzate, non di fare queste domande, va tutto a posto quindi Gregorio, ok. No, è che comunque, diciamo, con l'esperienza, con la consapevolezza che poi acquisti negli anni, ma certo, vedi certi episodi e capisci certe dinamiche che chiaro. Sono assolutamente oscure. Senti Gregorio, purtroppo non ho tantissimo tempo, però volevo chiederti questa cosa ossessiva che io amo, che è l'asciugamano steso perfetto. Tu ti fissi su questa, su questo dettaglio, su questa minuzia che in realtà per te sembra avere un significato importantissimo. Ci sono quelle persone che quando fanno le cose le fanno perfette, no? Cioè l'asciugamano è steso perfettamente in piano, non c'è la sabbia sopra. Io quando stendo l'asciugamano automaticamente c'è già la sabbia sopra. Sono, non so, ho invidia, ho, diciamo, timore, ecco, di persone che hanno questa capacità di ungersi perfettamente, di stendere perfettamente l'asciugamano, cose che io non sono in grado di fare, mi rimane la mano bianca o rossa, e che si riempie di sabbia sull'asciugamano, ovviamente. Gregorio, se sei libero lunedì prossimo ti aspetto al Pirelli Store, se invece non sei libero perché lavorerai probabilmente, sì, ti aspetto al live che facciamo a fine giugno qui a Milano, di cui appena sappiamo la data faremo comunicazione. Sarebbe molto bello, ti ringrazio. Grazie molto. Ancora. Ciao Gregorio, grazie, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Stiamo per chiudere, ma prima di questa immagine, di lasciarvi con questa immagine dell'asciugamano perfettamente stirato, voglio lasciarvi con qualche storia di coppie che sono insieme da sempre. Esattamente questo messaggio. Luigi e Francesca, fidanzati a Roma nel 62, sposati nel 68, 4 figli, ora nonni di 4 nipoti più uno in arrivo. Milano, litighiamo e facciamo pace ancora come nel 1962. Ciao, Luigi e Francesca. Grazie a Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Gregorio per la sua ossessione e per la sua storia. La storia era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Vivo a Casalce, in provincia di Bergamo. La storia di domani, la mia, parla di una caffettiera. Questa è la mia storia e io sono qui.